perdono amore mio, stasera scrivo a te l'ultima lettera. Ne ho strappate mille, sai, perché ti lascerò, ma non so dirtelo. Mai dicevi nascerà chi dividerci potrà. L'amore è un attimo, l'amore è un attimo, però la vita è un vento forte più di noi. E va, tristezza va, per lei c'è un pensiero e una lacrima. Già non mi difendo più dalla malinconia, il mio solo amico qui è questo treno che va verso casa mia. Mai dicevi nascerai.